vediamo che la partita volge al termine. Svolge al termine la partita. Vediamo che becca piede in avanti verso Carmine verso Arcobaleno. Cede la palla a Marco Di Travertino tira e niente, va fuori la palla, va fuori a fin di palo di 4-5 metri e la partita è finita. Affonoto, pareggio 1-1, un punto guadagnato con tanto sudore e con tanta voglia di fare dalla nostra squadra beniamina. Affonoto, adesso vediamo in tutta la gioia del campo, vediamo i risultati dagli altri campi esteri. Ci colleghiamo con Giovanni alla Murtilla. Giovanni, mi senti? A quale ti sento benissimo, forte e chiaro. Qui la partita, come al solito, non è che si può dire che sia una delle più spettacolari, anzi, a dire il vero, è veramente una cagata, perché comunque le azioni sono poche, sono frastagliate. Capisco. Quindi ecco qui, vediamo l'azione. Farina sulla destra, Sale, bella marcatura di Farina, Sale, passa in mezzo per Sale grosso, Sale, lievito la prende, ma non fa niente di che, come al solito lui arriva. Sì, vabbè, riassumici qualche battuta importante della partita. Niente, non è successo praticamente nulla, le squadre sembravano morte, cioè sono morte le squadre, è finita 1-1, il pareggio, passiamo finalmente, forza ragazzi. Abbiamo passato allora, dai, abbiamo passato affonuto. Grazie per la linea, rimando. No, non c'è problema, quando t'ha bisogno,